Cantine di Franciacorta. Siamo a Cologne Bresciano, cuore della Franciacorta, alla Boscaiola, cantina da 65.000 bottiglie e da quasi 6 ettari di vigneti. Nata dalla passione di Nelson Cenci, medico e scrittore, ex alpino, reduce dalla ritirata in Russia, passione coltivata dalle figlie. Giuliana Cenci, una di queste, è stata definita da un quotidiano nazionale la signora del vino, una donna in un mondo, quello del vino appunto, molto al maschile. Le difficoltà sicuramente ci sono perché è un mondo che è nato solo esclusivamente maschile, però da un po' di anni devo dire che l'impronta femminile diventa sempre più presente. C'è qualche cosa di più, c'è un qualcosa di più gentile, un qualcosa di più intimo, una personalità più morbida, diversa, e vedo che traspira dai vini e la gente poi la capisce. È tutto, alla prossima tappa! Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.